Diritti e rovesci, in collaborazione con Adico, Associazione Difesa Consumatori. Secondo appuntamento questa settimana insieme all'Adico, l'Associazione Difesa Consumatori di Mestre, ritroviamo il presidente Carlo Garofolini. Ciao Carlo. Ciao Francesco e un saluto a tutti gli ascoltatori. Questa volta parliamo di numeri, li snoccioliamo, che è un termine che usi tu spesso, sono numeri che riguardano il modo di spendere i propri soldi da parte dei padovani. Sì, questa volta Francesco ho voluto farti un regalino, abbiamo fatto un'indagine proprio sulla provincia di Padova, visto che insomma voi trasmettete da lì, abbiamo monitorato 160 iscritti della provincia, ma abbiamo monitorato anche diversi direttori di ipermercati e supermercati, perché abbiamo voluto un po' capire quelli che sono gli usi, i costumi, le tendenze dei padovani quando vanno a fare le spese e cosa comprano. E certamente i numeri sono molto interessanti e carini, perché denotano come in questi ultimi anni, insomma, anche questa crisi ha cambiato un po' le abitudini. Allora fammi un attimo indovinare, scommetto che sono sempre di più i padovani che vanno in cerca delle offerte nei supermercati piuttosto che? Sì, purtroppo è uscito che uno su tre addirittura utilizza i buoni pasto per comprare la spesa, ma è anche vero che le persone cercano sempre di più i prodotti in sconto, tant'è che sull'indagine è emerso come su 100 euro che le persone spendono nell'acquisto di generi alimentari, 30 euro sono dedicati ai prodotti scontati, quindi certamente un 30% il costo della spesa va a ricadere sui prodotti in offerta, in promozione o scontati. Certamente qua non si può parlare di quantità, ma anche di qualità, perché ricordiamo che molte di queste persone hanno dichiarato che non hanno nulla in contrario a fare anche degli sconti e comprare dei prodotti che magari sono alla vigilia della scadenza pur di risparmiare rispetto a quelle che sono le solite offerte e promozioni che periodicamente, soprattutto i centri commerciali, inondano le nostre cassette della posta, attirandoci insomma presso le loro strutture e poi magari ci spendere per tante altre cose. Quindi insomma sono sempre di più i padovani che prendono i volantini e decidono di comprare questo da questa parte e quell'altro da quell'altra parte, cioè le promozioni spostano la clientela. Guarda, qualche dato, Francesco, allora sempre più padovani, circa il 30%, ma soprattutto è l'importo dei prodotti scontati su quello che è un carrello della spesa che aumenta addirittura, come detto, 30 euro su 100. Ma poi soprattutto aumentano il consumo di prodotti biologici, vegetariani, vegani con più 15% e notiamo come c'è stato un crollo negli ultimi anni della carne rossa, che quindi anche questo fa capire come le persone insomma non possono più permettersi certi piatti che prima magari in maniera più disinvolta compravano. C'è anche una ricerca tante volte di prodotti del marchio interno di quell'ipermercato, perché abbiamo notato come Adico che comprare certi prodotti di certe catene di distribuzione si può risparmiare anche circa il 15% rispetto a quelli che sono i prezzi applicati sui marchi più comuni. Sì, e sono prodotti che sono comunque buoni, ce ne sono alcuni insomma che sono famosissimi, di marche famosissime, ma che avendo il marchio del supermercato costano decisamente meno, quindi vale la pena di essere un po' attenti in questo, capire quali sono le cose più convenienti per ottimizzare insomma la spesa del nostro carrello e avere qualche soldino in tasca in più per le altre necessità, vedi pagamento tasse, IMU e quant'altro. Ecco, è vero, una piccola curiosità, Francesco, ed è come c'è stato un crollo del 10% delle bevande gassate. Stranamente, visto che siamo anche insomma nel pieno dell'estate, insomma le bibite gassate non hanno quella PIL che negli anni scorsi c'erano. Comunque tutte attenzioni ed avvertenze che le persone anche a Padova ormai cercano, e che addirittura, come detto, tendono un po' a modificare anche quelle che hanno delle normali abitudini, perché oggi ormai si cerca di risparmiare e di adottare anche delle strategie per poterlo fare. Ecco, forse non è solo una questione di denaro, ma è una scelta più oculata di cosa comprare, per esempio per le bibite gassate che hanno tantissimo zucchero o affini che fanno anche più male dello zucchero. Insomma, forse la gente piano piano sta anche imparando a scegliere i prodotti, e questo potrebbe cambiare le modalità di consumo. E anche faccio riferimento per esempio all'attenzione che si sta portando in questi tempi all'olio di palma, all'olio di colza, tutti oli che vengono utilizzati nei biscotti. Piano piano, se qualcuno inizia a comprare le altre cose, a lasciare quelli nello scaffale, forse cambieranno anche il modo di farli i biscotti e miglioreranno in qualità, speriamo. Sì, guarda, hai aperto una bella parentesi, ci promettiamo una delle prossime puntate anche a parlare un po' di quest'olio di palma, ma comunque trova conferma tutto quello che hai detto. Grazie al presidente dell'Adico, Carlo Garofolini, ricordo www.associazionedifesaconsumatori.it. Grazie a te Francesco e un saluto a tutti gli ascoltatori. Diritti e rovesci, in collaborazione con Adico, Associazione Difesa Consumatori. Per riascoltare questo programma vai su bluradioveneto.it.